il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Alpinista e ambientalista, Toio De Savorgnani è il vincitore del premio ARCAV 2016. Il riconoscimento che l'Associazione dei Giornalisti Agroalimentari e Ambientali del Veneto dà ogni anno a una personalità che si è distinta per dare lustro al territorio regionale. Vogliamo dedicare quindi la trasmissione di oggi a questa persona poco nota al grande pubblico, ma che chi si occupa di montagna e di ambiente conosce bene per il suo impegno costante a difesa della montagna veneta e non solo. L'ARCAV ha voluto anche dare un premio speciale al socio Efrem Tassinato, giornalista e chef, fondatore e presidente nazionale dei circoli Wigwam. Ma torniamo a De Savorgnani. È nato nel 1954 da madre cimbra del Cansiglio, zona dove da bambino trascorreva tutti i periodi di vacanza, e dal padre friulano forestale di professione. Con queste origini forse non poteva che sviluppare una passione smoderata per la montagna, ciò che è divenuto il suo principale impegno sia come alpinista che come tutela degli ambienti naturali. Ha quindi partecipato alla fondazione di numerosi comitati ecologisti per la salvaguardia della natura e per due anni è stato responsabile nazionale di Mountain Wilderness Italia, associazione che contribuì a fondare nel 1988. È stato poi tra i fondatori del Comitato per il Parco del Cansiglio, dell'Eco Istituto Veneto Alex Langer e dell'Associazione Eco Himal Italia, che opera per la conservazione dell'ambiente naturale e della cultura delle popolazioni himalayane. Dagli anni Ottanta De Savorgnani ha iniziato a occuparsi del giardino botanico Alpino Lorenzoni in Pian del Cansiglio, dove tuttora lavora, e ha collaborato alla ristrutturazione del museo etnografico, ora chiamato Museo dell'Uomo in Cansiglio. È autore di numerose pubblicazioni e collabora con varie riviste a tema ambientale. Diamo ora la parola a Fabrizio Stelluto, presidente di ARCAV Veneto, per conoscere le motivazioni del premio e poi di seguito allo stesso De Savorgnani. Toio De Savorgnani è un alpinista ambientalista. È stato fondatore e anche presidente di Mountain Wilderness Italia ed è impegnato fortemente nel preservare l'ambiente del Pian del Cansiglio, di cui è un profondo conoscitore. L'abbiamo scelto perché crediamo che poche persone illustrino come lui la difesa dell'ambiente nel quale noi viviamo. Infatti la motivazione dice esattamente: per promuovere costantemente il rispetto per l'ambiente, non solo attraverso iniziative di sensibilizzazione della collettività, ma anche con i numerosi racconti che sempre mostrano la forza del suo amore per la natura che ci circonda. Ecco, mi piace anche ricordare come lui sottolinei quanto nella sua produzione letteraria più recente emerga il rapporto spirituale fra l'uomo e la montagna, fra l'uomo e l'ambiente, e che lui ricorda essere stato ripreso anche nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Toio De Savorgnani, che significato ha per lei questo premio? Ma è un riconoscimento molto importante, cioè una grande soddisfazione per una persona come me che ha dedicato su circa 60 anni della propria vita, 35 anni all'impegno in difesa dell'ambiente naturale in generale, ma della montagna in particolare. È un evento importante, è come dire che in qualche modo dà un senso compiuto anche un'esperienza, è un riconoscimento, e non è facile per noi ambientalisti che mettiamo sempre mano a argomenti delicati, importanti, scomodi, scabrosi, che qualcuno ti dica: riconosco che hai fatto una cosa importante, che hai fatto bene, è una soddisfazione notevole, è un riconoscimento. Sappiamo che l'abbandono è uno dei problemi della montagna, vi sono aree ad esempio che da tempo non sono più curate e che sono ritornate selvagge anche a pochi passi da centri abitati o turistici. Magari sono aree che sono state ricolonizzate da animali che erano spariti e che spesso però entrano in conflitto con gli agricoltori o con chi vive nel territorio stesso. Però questi stessi animali attirano turisti, pensiamo all'orso nel Trentino. Insomma, ci sono tante questioni che si intrecciano tra loro quando si parla di montagna. Che cosa ne pensa?

Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del premio ARGAV 2016, il premio dell'Associazione Giornalisti Agroalimentari e Ambientali del Veneto, che è stato assegnato proprio la settimana scorsa a Toio De Savorgnani, alpinista e ambientalista veneto. L'ambientalismo oggi forse si dà un po' per scontato, cioè siamo tutti ambientalisti, siamo tutti attenti anche all'alimentazione di un certo tipo, chilometri zero, che ne so, però vediamo che ci sono in realtà, forse mai come oggi, degli attacchi a cose che si davano per scontato. Abbiamo sotto gli occhi la questione dei parchi del Veneto, ma anche in giro per il mondo ci sono delle situazioni molto gravi. Com'è cambiata la vostra, chiamiamola battaglia, comunque attività di informazione e sensibilizzazione in questi 30-40 anni di impegno? Beh, ci sono stati sicuramente dei cambiamenti, diciamo che l'ecologismo, l'ambientalismo con cui ho cominciato la mia attività appunto 35 anni fa era più basato su cognizioni scientifiche, o prevalentemente basato su cognizioni scientifiche e quindi puntuali, ben individuabili e normalmente a livello locale, insomma. Invece in questi anni l'attività degli ambientalisti si è globalizzata. Noi stessi, appunto, Mountain Wilderness, la mia associazione, ci dedichiamo dall'Himalaya al Sud America, alle regioni polari, alle Alpi, e c'è anche da dire che come è avanzata la coscienza, una parte almeno di coscienza ecologica nella popolazione, diciamo che non aveva mai preso atto di questi temi, di questi problemi, sì, adesso invece sta diventando sempre di più patrimonio comune l'allarme sui problemi ambientali che vanno dal riscaldamento globale all'inquinamento globale, anche quello, alla qualità della vita, l'aria, eccetera, ma allo stesso tempo anche i problemi sono diventati più grossi e più radicali e con un maggior impatto reale, lo stiamo capendo solo adesso, sulla nostra vita e sulla nostra qualità della vita soprattutto. E da un altro punto di vista, almeno per una parte degli ambientalisti, c'è stata, come dire, una scoperta di un mondo parallelo, se si può dire così, cioè di tutti i temi legati non solo agli aspetti scientifici, ma anche a quelli etici, morali, fino ad arrivare allo spirituale o anche al religioso. Pensiamo all'impatto che ha avuto sull'opinione pubblica l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, che anche lui ha avuto un coraggio straordinario nel tentativo di far prendere alla Chiesa anche una strada diversa. Ho parlato di tentativo, cioè poi per riuscire a muovere una tale, diciamo così, massa critica di pensiero, di azioni, di comportamenti, ci vorrà del tempo, ma ha avviato la strada ed ecco che appunto tante delle lotte ambientali che fino a qui avevano soltanto un aspetto appunto ecologico in senso stretto, adesso si sono aperte a temi anche più umani, umani nel senso di sociali, morali, etici e spirituali. Grazie a Toio De Savorgnani. Andiamo a chiudere la trasmissione con alcune notizie. È il veneto Diego Scaramuzza il neo eletto presidente di Terra Nostra, l'associazione agrituristica di Col Diretti, che rappresenta oltre 3.000 agriturismi italiani che espongono il noto marchio Campagna Amica. È una sfida bellissima che accolgo con entusiasmo, ha dichiarato Scaramuzza, titolare della cascina di Mestre. Il Valpolicella Ripasso, e stiamo parlando di vino, cambia nome e aggiunge un aggettivo, superiore. Il celebre vino della Valpolicella, infatti, il primo dell'area per volume di vendita e il secondo per valore dopo l'Amarone, si chiamerà infatti Valpolicella Superiore Ripasso. Una decisione presa dopo solo 6 anni dalla nascita della denominazione di origine protetta nel corso dell'assemblea straordinaria del 14 dicembre. Il cambio del nome si colloca parallelo alle modifiche del disciplinare che vanno nel segno di una maggiore qualità del vino a partire dalle uve fino alle tecniche di produzione e di cantina. Restiamo in tema vitivinicolo. Nel corso di un convegno tenutosi durante la recente Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Santa Lucia di Piave, il direttore del Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'USL 7, Giovanni Moro, ha esposto i risultati di una recente ricerca sanitaria condotta sulla popolazione residente nell'area vocata a Prosecco di OCG. I principi attivi contenuti nei fitofarmaci a uso agricolo, ha rivelato il dottor Moro, non aumentano l'esposizione al rischio di patologie tumorali. I dati del Servizio Epidemiologico Regionale dimostrano che l'USL 7 ha mortalità per tumore inferiore alla media veneta. Inoltre, una recente ricerca condotta dalla stessa USL nell'area del Prosecco di OCG ha constatato la diminuzione dell'etilenzio urea urinaria negli abitanti di zone agricole. Questo nel 2014 rispetto al 2012. Una riduzione, secondo il dottor Moro, dovuta al maggior rispetto dei regolamenti comunali adottati nell'area del Prosecco da parte degli agricoltori, ma anche a una maggiore attenzione all'uso degli antifungini negli orti domestici. Continueranno tuttavia, assicurato Moro, i controlli sugli atomizzatori, sui residui di fitofarmaci nei vini e sulla presenza di diserbanti nelle acque sotterranee. Con questo è tutto, vi diamo appunto con il quadrifoglio all'anno prossimo, perché questa è l'ultima trasmissione del 2016, vi diamo appuntamento quindi al 2017 e personalmente auguro a tutti un buon Natale. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.